Ladies and gentlemen, welcome back to Radio Samarcanda. Radio Samarcanda, Tochka, it, punto, it. Edith al microfono con voi. C'è un grandissimo musicista che è venuto a vivere qui a Roma in un certo periodo della sua vita, naturalmente per amore, e lui era stato uno dei fondatori di un gruppo che si faceva chiamare Oregon, in tempi in cui ancora la ECM non esisteva. Incidevano album con sonorità particolari, chitarra, sitar e varie percussioni africane. Il signore che suona la chitarra, che sentite ancora in sottofondo, con la voce di Nana Vasconcelos che suona le percussioni, Harold Anderson al basso, si chiamava Ralph Towner. Ralph Towner da poco non c'è più, ma è rimasta una marea di musica da lui composta e suonata. Credo che sia stato un musicista che ha lasciato nel cuore di moltissima gente tanta, tanta musica, molto, molto particolare. Quello che stiamo ascoltando è un brano che si chiama Svev, Harry Anderson, Ralph Towner e Nana Vasconcelos. Thank you. figlio di un trombettista e di un insegnante di pianoforte, iniziò lo studio del pianoforte classico all'età di 3 anni e anche della tromba a 5. E Ralph Towner passò alla chitarra solamente a un'età adulta, quando frequentava i corsi di composizione di Holbert Keller presso l'Università dell'Oregon, dove incontrò il bassista Glenn Moore, che sarebbe in seguito diventato uno dei suoi compagni nel progetto Oregon. E fu in quel periodo che acquistò la sua prima chitarra classica. In seguito sarebbe diventato il suo principale strumento. All'inizio degli anni 60 si trasferì a Vienna per studiare chitarra classica con Karl Schelt e nel 1968 tornò negli Stati Uniti e si immerse nella scena musicale newyorkese, unendosi al Paul Winter Consort, diretto dal pioniere della world music Paul Winter. Più tardi, insieme ad alcuni musicisti, Paul McCandless, il suo vecchio compagno di studi Glenn Moore e Colin Walcott, Ralph Towner lasciò questo gruppo per fondare nel 1970 il gruppo degli Oregon. Come dicevamo prima, è un gruppo che mescolava sonorità che possono essere chiamate musica folk, influenze etniche e libera improvvisazione jazzistica, che ottennero una vasta risonanza, pensate, negli anni 70. Quanta musica bella si ascoltava. C'è ancora adesso, ma è molto ignorata. Grazie a questa radio, probabilmente, qualcuno riuscirà a riascoltarla. In quello stesso periodo, infatti anche gli Oregon incisero per loro, cominciò una lunga collaborazione con la casa discografica ECM e quindi entrò a far parte di questa grande famiglia di musicisti. E con l'ECM ha pubblicato praticamente tutta la sua produzione musicale successiva al periodo degli Oregon. Quello che stiamo ascoltando è un disco ECM, appunto, che si chiama If You Look For Enough. Il brano che c'è in sottofondo, che mi consente di parlarvi un po' di lui, di farvi entrare un po' in questa atmosfera prima di farvi ascoltare dei brani. Complessi, in qualche modo. A un certo punto ha collaborato anche con il Weather Report, in un album del 72 che si chiamava Sing the Body Electric. Si era stabilito a Roma e è morto praticamente il 18 gennaio del 2026. Aveva 85 anni. in trio con Harold Anderson e nella Vasconcellos Ralph Stauner alla chitarra, e continuiamo ad ascoltare alcune cose delle sue collaborazioni e produzioni. Questo è un altro album dove ci sono altri due musicisti insieme a lui, Wolfgang Multspiel e Slava Grigorian. Travel Guide è il titolo dell'album, sempre per l'ECM. Il brano che abbiamo scelto si chiama Nico und Mitra. Ralph Stauner, e quindi è con profonda commozione che ricordiamo la sua musica. Ralph Stauner, maestro indiscusso della chitarra classica, innovativo architetto del suono nel jazz contemporaneo. È un'arte, la sua, che ha saputo fondere una tecnica classica con improvvisazione e visioni sonore oltre ogni confine. Ancora con questo trio, cioè Wolfgang Multspiel e Slava Grigorian, il brano che ho scelto si chiama Father Time. Thank you. Oltre alla chitarra, Towner suonava anche il pianoforte, il sintetizzatore, le percussioni e la tromba. Diciamo che era un punto di riferimento molto significativo nell'ambito del chitarrismo moderno, perché ha sempre coniugato diverse sonorità, da quella della chitarra classica a quella della chitarra a 12 corde. Questo è Circuit Place, insieme al nostro Paolo Fresu. Che forse in questo brano resta seduto da una parte. Ralph Towner, Circuit Place. Immergiamoci adesso nel sound del progetto Oregon. album di un bel po' di anni fa. Si chiama Distant Hills, non è ancora un ECM, ma è ancora... Qui con lui ci sono Colin Walcott, anche lui venne a far parte della famiglia ECM di Manfred Eicher. Glenn Moore e Paul McCandless. Oregon è in insieme a Ralph Towner, e di cui celebriamo la musica, visto che questo musicista è appena scomparso. Torniamo sui solchi di un altro album dell'ECM. L'album si chiama My Foolish Heart e questo è proprio il brano che dà il titolo all'album. È un brano famoso. Voi riconoscerete sicuramente la melodia. Ralph Towner, My Foolish Heart. Io sono sempre affascinato e praticamente, sorpreso dalla qualità della registrazione dei dischi ECM. Si sente il legno della chitarra che si sposta, anche perché Ralph Towner aveva una posizione classica, precisa, quindi il poggiapiede, la chitarra molto inclinata. Ed era sempre pieno di idee. Lui diceva che l'innovazione musicale non è un'impresa facile. Non richiede solo un talento innato, ma anche una devozione all'arte che non sia accecata dal bagliore commerciale della cultura popolare. E perché si fosse messo ora all'ascolto della nostra radio, stiamo celebrando la musica di Ralph Towner, che da poco ha lasciato questo mondo, esattamente il 18 gennaio del 2026. Però a questo punto io volevo farvi ascoltare un brano di un altro chitarrista che amo particolarmente, anche per così, per apprezzare la differenza, le differenze chitarristiche tra un artista e un altro. Lui si chiama Pat Metheny, è un disco piuttosto curioso che si chiama Pat Metheny Trio 99 e 2000. Il brano che ho scelto si chiama We Had a Sister. Thank you. We Had a Sister, Pat Sabatini, insieme a Bill Stewart alla batteria e a Larry Grenadier al basso. Allora, noi stiamo celebrando in qualche modo, stiamo cercando di conoscere meglio la musica di un musicista che se n'è appena andato. Si chiama Ralph Towner, è un chitarrista che ha costruito collaborazioni con gruppi come gli Oregon, anzi forse li ha proprio costruiti, e poi a un certo punto per amore se n'è arrivato a Roma e ha vissuto a Roma fino alla sua morte. E c'è un album molto bello di cui parlavamo prima, che si chiama Chiaroscuro, insieme a Paolo Fresu. Io avrei scelto da questo album un pezzo che si chiama Punta Giara. Thank you. Ralph Stauner con Paolo Fresu. Stiamo ascoltando, e per qualcuno stiamo conoscendo, la musica di un musicista che ci ha appena lasciati. Non perché è stato in studio con noi, ma perché ha lasciato proprio questo mondo da poco. Io ho sentito la commozione e il piacere di riascoltare musiche che in periodi culturalmente floridi di un paese come l'Italia, questa musica veniva ascoltata da parecchia gente, forse ancora oggi, ma le radio e tutto quello che c'è intorno alla musica oggi, questa musica se ne frega tranquillamente, non sa nemmeno che esiste. Nel 1974 Ralph Towner incontrò Gary Burton e in un paio di giorni registrarono questo album. Bellissima la copertina con un pacchetto di fiammiferi. Matchbook è il titolo dell'album. Il brano che ho scelto dovrebbe essere abbastanza famoso. Si chiama Icarus. Al vibrafono Gary Burton, alla chitarra Ralph Towner. Questa è Radio Samarcanda. La 12 corde. succede sempre più spesso ormai per chi ha una certa età, quando scompare un musicista col quale hai vissuto anche bellissimi momenti di musica, mi piace riascoltare qualcosa della musica che ci ha lasciato. Lui è Ralph Towner alla chitarra, al vibrafono c'era Gary Burton. E adesso andiamo a curiosare su un album che dovrebbe essere un album recente, un album del 2023. Il brano che ho scelto si chiama Straight. Ralph Towner. Thank you. In questa incisione del 2023 Ralph aveva ampiamente superato gli 80 anni e ha mantenuto intatta la sua tecnica e il suo stile. L'album si chiude, un album che si chiama At First Light, si chiude con un brano che si chiama Empty Stage, palco vuoto. Empty Stage, un programma completamente dedicato alla figura e alla musica di Ralph Tanner, da poco scomparso. E da questo ultimissimo album del 2023 c'è un altro brano che mi incuriosisce e si chiama Argentinian Nights. Sentiamo. Thank you. E concludiamo l'excursus che stiamo facendo sulla sua ultima incisione del 2023, un album che si chiama At First Light, con proprio il brano che dà il titolo all'album. Un album bellissimo da ascoltare ad occhi chiusi E io vi consiglio anche di ascoltare, di riascoltare questo programma quando verrà riproposto con un buon impianto stereo oppure in cuffia, perché comunque è la dimensione migliore per poter isolarsi e sentire meglio la musica del musicista che stiamo celebrando, perché è scomparso da poco, che si chiama Ralph Towner. Che altro mi piacerebbe ascoltare? Ecco, vorrei tentare di catturarlo dal vivo, magari, da un album che si chiama Solo Concert. Ecco, si sente tossire la gente in ascolto. Spirit Lake. Stiamo ascoltando Ipnotizzati, Ralph Towner dal vivo, da un programma in cui lo abbiamo profondamente, con grande commozione, celebrato, ricordato, suonando quanti più dischi si potevano trovare. Era difficile costruire l'atmosfera adatta per l'ascolto di questo tipo di musica, ma sono convinto che questa radio ha la potenzialità e le persone in ascolto che possano godersi questo tipo di musica col massimo del piacere. Bene, lasciamo andare Ralph Towner per la sua strada nell'aldilà e lo salutiamo. Salutiamo un musicista che ha dato tantissimo a chi lo ha ascoltato. Ecco ancora un frammento della sua arte dal vivo. A questo punto io vorrei voltare completamente pagina e vorrei portarvi in un grande teatro dove si è svolto un concerto. Passiamo da un musicista che suona con le dita a due musicisti che invece creano con i computer, però coadiuvati anche da altri musicisti che sono con loro dal vivo. Lasciamo Ralph Towner. Non potremo mai più sentirlo dal vivo, ma questo programma sarà l'occasione per riascoltarlo varie volte. Difficile abbandonarlo. Ancora un po' della sua arte, intanto che prepariamo il collegamento con questo grande teatro, dove ascolteremo una buona parte del concerto dal vivo che questi musicisti hanno regalato ai loro fan, tra l'altro intervenuti veramente in massa, erano tantissimi. L'occasione è stata il Roma Europa Festival, un festival meraviglioso che accade qui nella città di Roma ogni anno, in cui si possono vedere grandi opere di danza moderna, spettacoli teatrali anche in lingua originale e talvolta anche dei concerti un po' particolari. Noi eravamo lì presenti, siamo arrivati con il nostro registratore, ci siamo seduti e poi ne abbiamo fatto un programma per voi. Ecco, ci spostiamo. Ecco, stanno salendo sul palcoscenico Kruder e Dorfmeister. Dal vivo. A Radio Samarcanda c'era. Sono un duo di producer elettronici. Producer di musica elettronica. Vengono considerati i padrini di un genere musicale che si chiama down tempo. Insomma, alla fine, tra produzioni, mix e remix di brani famosi, addirittura a un certo punto perfino i Depeche Mode e Madonna gli chiedono di remixare una loro composizione. E quindi, insomma, i due ragazzi del 68 diventano famosissimi. Hanno un sacco di soldi. La curiosità è come due personaggi che lavorano dietro i computer se poi possono costruire una performance dal vivo. E infatti, l'altra sera avevano due percussionisti, un tastierista e un bassista. Tra l'altro molto bravi. E quello che state ascoltando è il sound di questa performance, che forse è più bella per radio che seduti lì a guardare, non lo so. Riconoscibilissimo il brano tratto da DJ Kicks del 96. È qui che cominciano a diventare veramente famosi. Li proiettano quasi in un nuovo contesto che invoca una sorta di sospensione temporale che va al di là della musica, appunto. Kruder e Dorfmeister a Samarkand Digital Network. Abbiamo lasciato il palcoscenico dove si esibivano Kruder e Dorfmeister. Prima abbiamo celebrato la musica di Ralph Towner. E adesso, per una strana allucinazione, probabilmente quel tipo di sound mi ha ricordato questo disco uscito tantissimi anni fa. un lavoro con Dvedip, Carlos Santana, Ellis Coltrane. All'inizio di questo disco c'è Guru Sri Chimnoy, che aveva affascinato sia Carlo Santana, appunto Dvedip, sia John McLaughlin, e fecero un album insieme, Vestiti di Bianco. Felici di aver aderito a questa illuminazione, appunto. L'album si chiama Illumination. Anche Ellis Coltrane aveva cambiato nome in Turiba. Non ricordo il nome di John McLaughlin. Thank you. Meravigliosa illuminazione, questa bellissimo questo disco, era chiaramente un disco che va ascoltato in determinati momenti. E in un determinato stato d'animo. Anche qui. Questo era Caravanserai, anche qui c'è un inizio molto particolare. Welcome Caravanserai Abraxas Illumination. Album che iniziavano con una forma di nuova iniziazione a una spiritualità. L'eterna carovana della reincarnazione. E questo era l'inizio di un disco bellissimo che si chiamava Caravanserai. Non so se vi ricordate l'inizio di un altro album. Un album che si chiamava Abraxas. Adesso lo vado a cercare. E Caravanserai cominciava a partire un gruppo di straordinari musicisti che costruiscono cose meravigliose da risentire in cuffia. Carlos Santana. Ways Within. E adesso bisogna stare molto attenti a non far partire il brano dopo, perché erano tutti molto legati, arriva l'organo e noi ci spostiamo su Abraxas e vediamo che com'era l'inizio di questo disco. Thank you. canta il vento, il pianto degli animali. All'improvviso arriva una magica donna nera. I've got a black magic woman, got me so blind. E fu così che il brano, scritto da uno stranissimo ragazzo inglese che suonava l'organo e cantava come un nero, finì in un disco di Carlos Santana. Black Magic Woman era dei Steve Winwood, che in quel periodo militava in un gruppo che in questo momento non mi viene, mi viene in mente i Fleetwood Mac, ma non mi ricordo, non sono i Fleetwood Mac. Sì, un attimo di confusione. Sì, la confusione viene quando è il momento di chiudere lo spettacolo, stavo dicendo. Bene, questa cavalcata che abbiamo fatto attraverso la musica di Ralf Stauner all'inizio, poi siamo passati a sentire il sound di Kruder Dorfmeister. Edith al microfono con voi, vi saluta, si congeda e vi ringrazia per essere stati con noi con Radio Samarcanda, una delle radio più speciali che c'è in questo momento al mondo, almeno dall'Italia. Quando vi imbattete in questa radio dovete assolutamente dirlo a tutti, è un virus che si deve espandere, è un virus che fa bene. Potete trovare la stanza del nonno anche su alcune piattaforme, ho visto che viene distribuita su Spreaker, su Spotify e anche su Amazon Music. Edith vi saluta, vi ringrazia e vi dà appuntamento alla prossima volta. Ciao! Buona musica a tutti! Ci fermiamo con l'attacco di Oye Como Va, eh? bisogna lasciarlo. Devo andare via. Ciao ciao!